Quest'anno sì, è il solstizio di estate, il primo giorno d'estate del 2017. In realtà l'estate, ve ne sarete accorti, è iniziata da un bel po' perché fa un caldo che si crepa, e anche qua nell'antro scuro dello studio del Wombat abbiamo sfoggiato bikini, cocktailini, pompelmi, ombrellini, non lo so. No, non è vero, non c'è niente di tutto ciò, ma facciamo finta che sia così. Il tema di quest'estate, no, di questa, mi veniva di quest'estate, ma no, è il tema di solo oggi, del primo mercoledì di estivo, di Slick Chick. Il tema è appunto l'estate. Beh, è ovvio, non sono particolarmente originale, ok, è un po' così, è una scelta banale, ma tant'è. E ho ripreso possesso oggi dei microfoni dopo la vacanza che mi ero fatta lo scorso mercoledì. D'altra parte ve l'avevo preannunciata, non vi potete lamentare, e come chi torna a casa dopo un po' di vacanze, in particolare le mie erano vacanze fino a un certo punto, perché la vostra Bloody Mary era in trasferta ad Hackmeeting, in quel di Venaus in Val di Susa. Beh, comunque sia, ho ripreso possesso il microfono, ho riguardato le mie cosettine, ho riaggiustato i volumi che erano tutti scazzati, e quindi mi appresto adesso a iniziare. Abbiamo iniziato dopo la sigla, ovviamente, che è sempre la stessa, estate e inverno, e abbiamo iniziato con il tema da A Summer Place, ovvero Scandalo al Sole in italiano. Chi l'eseguiva era Percy Faith e il brano è del 1959. E il compositore, in realtà, anche se l'esecutore appunto era Percy Faith, ma il compositore di questa musica era Max Steiner, che tra l'altro era lo stesso di Casablanca, quindi insomma, diciamo, un compositore per musiche di film non proprio di nicchia, come dire. Il singolo tratto dalla colonna sonora fu un gran successo e negli anni successivi ne vennero derivate diverse altre versioni, strumentali e non, tra l'altro. Questa che avete sentito ovviamente era strumentale, ma poi in seguito ce ne sono state diverse altre con inserita una linea vocale. Tra l'altro ne fecero delle cover anche due famosi gruppi surf, i Tornados e i Ventures, di cui parleremo più avanti nella trasmissione dei Ventures in particolare. Oltre che nel film originario, questo pezzo è stato usato un po' ovunque, nel cinema, in televisione, dai Simpson ai Monty Python, da Buffy l'ammazza vampiri al film di Batman, e un sacco di film con un certo non so che di inquietante, tra cui tra l'altro molti tratti dalle opere di Stephen King. Questo era il primo brano appunto per celebrare un po' l'estate arrivata, e proseguiamo con subito i Ventures. Ve l'ho appena nominati e adesso vi tocca sentirveli. I Ventures, che in questo caso suonano Wipeout, un brano del 1963. Il brano originale invece è It Is Sir Ferris, ma credo questa sia la versione più nota. Siamo in pieno periodo surf, come ve ne accorgerete molto facilmente dalle prime note. Out. Dopo The Ventures cambiamo, direi, completamente genere, perché siamo circa 20 anni dopo, più o meno, e ok, sì, non è un gran pezzone, va bene, mi rendo conto, però il gruppo è degno di nota perché sono le Bananarama, Bananarama del 1984 con Cruel Summer. Questo pezzo diventò famoso perché era stato, attenzione, attenzione, inserito nella colonna musica di Karate Kid. Ovviamente ve lo ricorderete, immagino, proprio vi ricorderete il momento preciso in cui risuona questo pezzo. Ma la cosa buffa è che in realtà le Bananarama non avevano consentito a includerlo nell'album delle musiche del film. Nonostante ciò divenne una hit che scalò le classifiche. Il video è molto divertente, tra l'altro, se vi capita dategli un'occhiata, è stato girato a New York e le Bananarama, con il loro nome impronunciabile, vengono inseguite da dei poliziotti, il che smorza un po' la loro noia dell'ennesima estate crudele, come dicono. Gli Ace of Base, attenzione, altro gruppone, no vabbè dai, non mischiamo il diavolo con l'acqua santa, gli Ace of Base hanno fatto una cover di questo pezzo nel 98, inascoltabile assolutamente, beh, anche ovviamente, e il video è stato girato, attenzione, sullo Ostiense a Roma. Boh, non lo so, vabbè, comunque è andata così e ora quindi a questo punto vi faccio sentire le Bananarama. Trying to smile, but the air is so heavy and dry. Queste erano appunto le Bananarama e con Cruel Summer e pochi anni prima, veramente pochi anni prima, nel 1979, gli Undertones invece dicevano Here Comes the Summer, direi forse il pezzo più famoso degli Undertones, può darsi, comunque sia, l'album è appunto The Undertones, omonimo del 1979, e Here Comes the Summer è anche il titolo di un documentario della BBC sulla storia appunto degli Undertones. Pur provenendo da Derry, se vi ricordate, che è un posticino dove nel 79 non direi che non splendeva certo il sole, gli Undertones avevano questo splendido senso dell'umorismo un po' pop che gli ha permesso di svettare sopra la miriade di punk arrabbiato del momento. What can I do? You know you drive me crazy when I'm looking at you. The summer's really here and it's time to come out. Time to discover what fun is about. Here comes the summer. Here comes the summer. Here comes the summer. Keep a looking for the girls with the faces all tan. The land of the beach is all covered in sand. Stretching out the long legs, lying in the sun. Playing on a beautiful and having fun. Here comes the summer. Il rovinamento delle rovine. geometri a capo del cantiere controllano che tutto vada a buon fine e che nessuno esca salvo dalle lamiere. Questi erano i Bava con Nebbia a luglio dall'album Lo stile di vita del 2007. Ne abbiamo già accennato qualche puntata fa, dei Bava, beh, amichetti milanesi che ahimè non suonano più. In questo pezzo c'era anche una partecipazione neanche troppo nascosta di pezzi degli Affranti. Ma proseguiamo perché la scaletta è lunga, l'estate è corta e quindi dobbiamo andare avanti con un pezzo invece questa volta, non che gli altri facessero schifo assolutamente, però direi un bel pezzo importante, ovvero i Refused con Summer Holidays versus Punk Routine dall'album, attenzione, The Shape of Punk to Come del 1998, uscito per la Epitaph. Il titolo dell'album, appunto, che poi è la cosa più importante, l'album, non tanto il pezzo in sé, l'album è un riferimento intenzionale al disco del 1959 di Ornette Coleman che si intitolava The Shape of Jets to Come. E quello che si sente in questo album, a quel tempo direi che si può dire non esistesse praticamente, stacchi, cambi di tempo precisissimi, la voce distorta al limite tra il crunch e lo scrimo, alternata però, anche se ci fate caso, a una voce piuttosto pulita e melodica. Ma anche inserti elettronici e nonsense trash, un bel po' di nonsense trash direi, e oltretutto anche dei testi bellissimi e importanti, importanti anche per quel periodo e che evidentemente hanno significato un bel po' nella scena punk del momento, nonostante poi loro fossero svedesi, quindi non è che proprio fossero al centro del mondo geografico perlomeno, ma tant'è, evidentemente la geografia non è importante spesso. Il cantante in un'intervista dice: abbiamo realizzato questo disco come una sfida verso i pregiudizi della gente circa cosa deve essere un gruppo punk e che cosa deve suonare, in quanto il punk è il genere musicale più conservatore che ci sia. Anche nell'hardcore ci sono tantissime regole circa, la traduzione è un po' così, riguardo quello che è da considerarsi accettabile e quello che invece non lo è, e questo annulla completamente l'intero significato dell'idea originaria. Io sono estremamente favorevole, cioè, condivido un sacco questa affermazione. Sono molto grata a chi mi ha fatto scoprire questo disco, anche se in effetti mi ha fatto sviluppare una certa dipendenza. Ora, la dipendenza, se già non l'avevate, l'avrete anche voi, e quindi ascoltatevi Refused. Well, I'm dying. Life, The Most Southerly Vertical Sun. L'album è The Incredible Sinking Feeling del 2003 e gli Still Life sono un gruppo californiano, vabbè, che all'inizio usciva per l'Ebullition e di cui non saprei dirvi molti più aneddoti di questo, ecco. Ma comunque basta anche solo ascoltare la musica. E proseguiamo, gli anni più o meno sono gli stessi con quest'ultimo, perché passiamo dal 2003, torniamo indietro di un anno, il 2002, l'album è In Circolo, il gruppo sono i Perturbazione e il pezzo, trattandosi di estate, ovviamente è Agosto. Tra l'altro, secondo me, uno dei brani che meglio descrivono l'estate, almeno un certo tipo di estate. Se guardate il video legato a questo brano, c'è un video di animazione di Sylvain Vincendeau che è molto bello in realtà e ve lo consiglio. I Perturbazioni invece sono un gruppo abbastanza noto al cosiddetto grande pubblico, penso li conoscerete. Oltretutto Agosto, non mi ricordo se è proprio Agosto, comunque diversi loro brani sono finiti su MTV, quindi oh là là, grandi classifiche, grande pubblico. Ma in realtà iniziano nel lontano 1988 a Rivoli, Torino, provincia torinese, e i loro primi passi sono tutt'altro che mainstream. I primi dischi autoprodotti, secondo me, sono veramente belli, è difficile ritrovarli, almeno nella versione originale, ma insomma, almeno su in digitale li ritrovate. Qualcosa sopravvive anche un po' di anni dopo, in realtà. Negli ultimi 10-15 anni invece non mi sento assolutamente di consigliarvi niente di quello che hanno fatto, e almeno questo secondo il mio gusto personale. Quindi stendiamo un velo pietoso su tutto il passato e ascoltiamo qualcosa delle ultime cose belle che avevano fatto negli anni più lontani, quindi Agosto dei Perturbazione. Si sposta 6 mesi in avanti e non è il polo sud, qui non è il polo sud. Agosto, la sveglia che rompe il silenzio. Qualcuno in vacanze lei suona per ore, che freddo che fa, Dio che freddo. Ed è già buio, pesto l'inverno d'agosto. Il ghiaccio si posa e ricopre le cose. L'attesa del caldo congela anche i morti. Che freddo che fa, se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi? Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi? forse hai dormito sei mesi, ma sei così stanco, tanto stanco. Agosto è il mese più freddo dell'anno, nell'altro emisfero lo chiamano inverno, l'agosto. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi? Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi in questo agosto? Perché tremi in questo agosto? Perché tremi in questo agosto? Dopo Perturbazione, questo allegrissimo e spensierato pezzo che, come ci suggerivano qua in regia, probabilmente parlerà di un tossico che trema d'agosto, e è venuto il momento della nostra rubrica che avevamo sospeso la puntata scorsa, ma adesso riprendiamo allegramente, la nostra rubrica di Arcorella 2000, la rassegna stampa in particolare di Arcorella 2000. L'articolo che vi leggo oggi risale a 5 giorni fa, insomma siamo abbastanza sul pezzo, e come non potrebbe essere diversamente, vista l'attenzione che riserviamo a questo importante testata dell'hardcore italiano. E il pezzo si intitola Sospesi punti scena per chi ascolta musica su YouTube. Ve lo vado a leggere integralmente, come sempre, per non censurare niente degli importanti dettagli. Dopo anni di degenerazione diventa finalmente realtà il blocco dei punti scena per tutti i punk che si sono formati ascoltando musica su YouTube. La stretta è stata annunciata oggi dalla commissione che si occupa di assegnare giornalmente i punti su tutto il territorio nazionale, verificando la presenza ai concerti, la partecipazione ai grandi temi di dibattito e ovviamente la conoscenza del punk hardcore. Proprio quest'ultimo era da tempo sotto la lente della commissione, visto che tra molti esponenti si era da anni diffuso il malcostume di vantare approfondite conoscenze discografiche dei gruppi storici senza possedere le opere fisiche, ma solamente ascoltando a tempo perso musica caricata sul portale video, impoverendo la cultura media della scena e generando, tra l'altro, ingenti giri di denaro attraverso le pubblicità che YouTube inserisce tra i video più popolari. Adesso, fortunatamente, questa pratica ignobile avrà un freno, o comunque non renderà dei punk scrocconi ignoranti degli esperti in materia. Il riconteggio dei punti scena durerà circa un mese e sarà comunicato ad ogni possessore di tessera via mail. La missiva conterrà il virus pezzo inedito dei Sex Pistols.exe, nel caso degli imbroglioni più evidenti. Nel caso degli imbroglioni più evidenti, che cancellerà tutta la cartella musica dagli hard disk dei colpevoli. Questo era l'articolo di oggi della rassegna stampa di Arcorella 2000. Vi ricordo che se volete andare a leggere gli altri articoli potete trovarli su arcorella2000.wordpress.com, a cui noi ci fregiamo di fare pubblicità. E dai Perturbazione e da Arcorella 2000 zompiamo a tutt'altro genere, Arriviamo a un pezzo, torniamo parecchio indietro, per la precisione nel 1958, a un pezzo di Eddie Cochran, in particolare The Summertime Blues. Eddie Cochran, direi uno dei caposaldi del rockabilly, rock and roll classico, che però, ahimè, la sua, chiamiamola, carriera, insomma, gli anni d'oro in cui ha inciso sono pochissimi, perché Eddie Cochran muore piuttosto giovane in un incidente automobilistico, a 38 anni in particolare, durante un tour in Inghilterra. Nella macchina, tra l'altro, c'erano pure Jane Vincent, c'erano Shelley e il manager Pat Tompkins, ecco, tanto non lo conoscete, avrei potuto dirvi qualsiasi cosa, ma voglio essere precisina. Tutti sopravvivono, tranne il povero Eddie Cochran. Ci sono varie leggende intorno a questo incidente, tra le altre, tra le varie, quelle che Eddie Cochran la settimana prima fosse tormentato dei presagi di morte e avesse cercato una chiromante. Era entusiasta di ritornare a casa e, ahimè, però è morto prima. In particolare, invece, questo pezzo, The Summertime Blues, è un brano piuttosto bello, perché è un rabbioso blues in cui Eddie Cochran si lamenta del fatto che, ok, l'estate, il sole, che bello, io devo lavorare e non posso godermela. Il testo dice presso a poco così: sto per piantare su un casino, sto per cacciare un urlo per il fatto di lavorare tutta l'estate solo per provare a guadagnare un dollaro. Ogni volta che chiamo la mia ragazza e cerco di avere un giorno libero, il mio capo dice: nemmeno per sogno, ragazzo, devi lavorare fino a tardi. È un'ignobile ingiustizia, in effetti, e siamo tutti con Eddie Cochran. I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar. Yeah, every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go riding next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now, you can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Real well known, yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. around, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. E vabbè, non c'è bisogno che parlino espressamente di estate, perché i Beach Boys sono in qualche modo la quintessenza di quello che almeno noi europei associamo al sole californiano e all'estate un po' esistenziale di quei bamboccioni che sono gli americani. Macchine, ragazze, spiagge e fancazzismo, diciamo così. Questa era ovviamente I Get Around dei Beach Boys del 1964. Proseguiamo con un altro tono e dai Beach Boys e il loro surf, in realtà i toni si fanno un po' più soffusi, perché andiamo a sentire una ninna nanna, in realtà una ninna nanna ben conosciuta, perché si tratta di Summertime. Non credo che questo brano abbia bisogno di grandi presentazioni. È un'aria composta da George Gershwin per l'opera Porky and Bess del 1935, e beh, è uno degli standard jazz più famosi di sempre. Ne esistono migliaia di versioni, da Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Mahalia Jackson, Count Basie, John Coltrane, Ray Charles, Nina Simone, Charlie Parker, Keith Jarrett, ma anche altro tenore, Janis Joplin, bellissima versione, ma anche Morcheeba, i Doors, Sam Cooke, Mina, attenzione, Nick Drake e addirittura Maria Callas. Ma ce ne sono miliardi ancora che non potevo leggervi tutte. Quella che ho scelto io però è invece di Billy Stewart. Billy Stewart è un cantante soul che, scoperto da Bo Diddley, inizia a incidere per la Chess Records. Soul Rhythm Blues, diciamo, ma lo ascolterete. Vi consiglio anche di guardarvi su YouTube, nonostante poi chiaramente perderete dei punti scena, come abbiamo visto, come abbiamo letto su Arcorella 2000, ma ne vale la pena, perché c'è un video proprio di quegli anni dove Billy Stewart canta e potete ammirarlo in tutta la sua pinguitudine, ed è piuttosto bello da vedere. Quindi sentiamoci questa versione strana e un po' tutta sua di Summertime. La, la. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, don't you know, my darling? I said it right now, and the cotton is high. Like a, your daddy is a rich, kind of rich girl, and your mommy's good looking, yeah. So hush, better than a baby, don't you cry. One of these mornings come, you're gonna rise up singing. Then you spread your little wings, and take to the sky. La la la la. That morning, come on, baby, there's nothing gonna harm you. Thank you. pretty baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, do not let a tear fall from your eye. Oh! Billy Stewart, e vi devo confessare che sì, che questa è una delle mie versioni preferite di Summertime, se non la preferita. Dobbiamo smettere di ascoltarla purtroppo e proseguire nella nostra scaletta, che non ha più tantissimi pezzi rimasti, ma un po' sì, e quindi proseguiamo velocemente con Johnny Rivers e Summer Rain, la pioggia d'estate. L'album è Realization del 1968, è una canzone scritta in inverno che racconta, ricorda l'estate precedente, in questo caso una precisa estate, ovvero la Summer of Love, l'estate hippie del 1967, il festival a San Francisco nel quartiere di Haight-Ashbury, dove si riversarono 75.000 fricchettoni. Non sono una fan degli hippie, ormai penso che l'avrete intuito, per cui chiudiamola qui, altrimenti vi dovrei far sentire anche la risposta incazzata di Bowie o le critiche queer dei primi gruppi glam proto-punk. Summer rain taps at my window, west wind soft as a sweet dream. My love warm as the sunshine, sitting here by me. She's here by me. She stepped out of a rainbow, golden hair shining like moon glow. Soft as a soul, sitting here by me, yeah. She's here by me. All summer long, we spent dancing in the sand, and the jukebox kept on playing Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Drifted home, caught by a Gulf Stream. Never gave a thought for tomorrow, just let tomorrow be now. Let tomorrow be. Lonely Hearts Club Band. fire, and she's here by me. Bye. Summertime Rules dei Jane's Addiction. L'album era Nothing is Shocking del 1988, il secondo album dei Jane's Addiction, una band che beh, è abbastanza nota, ma comunque mischia insieme vari personaggi famosi del momento e costole dei Red Hot Chili Peppers. Veniamo a, innanzitutto non vi ho ancora letto i social Wombat e quindi ve li devo leggere, ovvero wombat.noblogs.org per il sito, che è la cosa più importante a cui vi rimando per sapere un po' tutte le novità. Tra l'altro si stanno aggiungendo un po' anche delle nuove trasmissioni e qualcosa si sta muovendo di nuovo, quindi vi invito a tenerlo d'occhio. Poi la pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la monotona e antipatica pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net. Vi ricordo anche, tra le varie novità del Wombat, una nuova trasmissione che per il momento andrà in onda in sole due puntate. Una già è andata in onda e se ve la siete persa, mi dispiace per voi, perché era martedì scorso, ovvero ieri, e la prossima andrà in onda il 27 giugno, sempre martedì, appunto alle ore 21. La trasmissione si intitola Basement Records, 100% vinili dal 69 al 72, e l'abstract ci racconta: le cantine riportano alla luce suoni di un passato a volte dimenticato, due puntate speciali per l'estate di Radio Wombat, un tuffo nella musica del triennio 69-72 con una selezione rigorosamente vinilica d'epoca in compagnia di quelle due sagome di prog e Dalai Lama. Quindi mi raccomando, ahimè, ormai solo il prossimo martedì 27 giugno dalle 21, ma secondo me non smetterà martedì prossimo, come questa sensazione. Magari se scrivete alla posta del Wombat per reclamare altre puntate, magari le fanno. Certo, se non dite niente, poi non vi lamentate. Comunque trovate sempre sul sito il podcast della puntata di ieri, se siete curiosi di sentire cosa è successo. Poi altra cosa che vi volevo dire era appuntamenti dell'agenda del Wombat, ovvero gli appuntamenti dei luoghi liberati di questa città fiorentina. Appunto, in particolare ci è giunto ben poco, trattandosi già di un clima estivo rilassato e pigro e comunque afoso, e l'unico appuntamento che vi posso segnalare è quello di domani, giovedì 22 giugno, alla Polveriera Spazio Comune, che ci sarà un concertino del collettivo Nuovi Rumori, che per questa volta, invece che la consueta location del Next Emerson, ha scelto la Polveriera, anche perché a Next Emerson si crepa di caldo in effetti. Quindi ultimissimo, stavolta davvero, perché l'avevano già annunciato, ma evidentemente ci prendono gusto a continuare con i concerti, ultimissimo appuntamento prima di andare al mare. Dalle 19 appunto alla Polveriera, cibo e birrette, dalle 21, ma precise, perché come saprete la Polveriera si chiude presto, tre gruppi: gli ICCA, hardcore punk da Schaffhausen, Svizzera, gli Avverso, post hardcore da Firenze, e i Sat, stoner da Empoli. Mi raccomando, insieme a loro, la puntualità. E questo era l'appuntamento. Proseguiamo con la nostra scaletta, che si avvia un po' alla conclusione. Ci aspettano soltanto tre pezzi. Il terzultimo e quindi il prossimo sono i Pavement. Pavement con un pezzo che si intitola Summer Babe, e l'album è Slanted and Enchanted del 1992, che è poi fra l'altro il primo disco dei Pavement, un altro di quei dischi che hanno, direi, influenzato poi moltissimi altri. Oh, house, but I will wait there. I'll be waiting forever. I'm waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting. Go! Pavement e proseguiamo con i Lego Goes. Lego Goes, l'album è Vacation del 1982 e il pezzo pure si intitola Vacation, ebbene sì, beh, direi uno dei più famosi. Qui le Go Go's andavano ancora abbastanza d'accordo, era il secondo album e poi le nostre hanno iniziato a fare a capelli. Belinda Carlisle diventata una star repubblicana, seppur gay friendly, va detto, ma comunque repubblicana, queste le strane cose che succedono negli Stati Uniti, e tutto è andato un po' ai maiali, ma ai bei tempi si stava ancora meglio. Thank you. E dopo le go-go's direi che stacco perché sono stremata dal caldo e prima di iniziare a straparlare forse è meglio che vada a godermi un po' di frescura estiva fuori da questa regia del Wombat. E però vi lascio in compagnia dell'ultimo pezzo e vi do anche appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 21 in diretta dai microfoni del Wombat con Slick Chick e vi ricordo anche che Slick Chick va in replica in altri 2 giorni, ovvero il venerdì alle 14 e il sabato alle 16, quindi se il mercoledì alle 21 non vi confà come orario potete sempre ascoltarmi in replica il venerdì alle 14 e il sabato alle 16 appunto, o altrimenti beccarvi il podcast, ma già lo sapete. Vi lascio in compagnia dell'ultimo pezzo, in particolare, beh, non potevo non farlo, non me ne vogliate, ma vi ho dovuto ficcare i diaframma, sì, diaframma, che avevano ben 2 pezzi che si adattavano perché c'era agosto, come forse immaginavate, ma io invece ho scelto Caldo dall'album Box del 1988, che probabilmente è il disco dei diaframma che io preferisco, e lo so, ve l'ho già detto che preferisco la voce di Fiumani, non ci posso fare niente, ognuno ha le sue. A mercoledì prossimo, sempre alle 21, oppure in replica, oppure in podcast, come preferite. Ciao ciao! Non basta tenere soltanto gli occhi aperti per buttare giù un sorso di caffè. Fuori fa caldo e chissà se dietro le serrande abbassate c'è qualcuno che ha coraggio da vendere e fa l'amore. Io sono venuto a trovarti al mare per guardarti nuotare e baciare i tuoi bambini. Io avrei voglia di sapere se di umanissimi ombrelloni sei stanca, se pensi a me. I tuoi amici sono un mucchio di stronzi, hanno facce da ricchi premi, ecco Tion, vestito come in città, il caldo picchia in testa e al cuore, scioglie gli affetti e forse li fa cambiare. L'autostrada è una macchia d'olio, l'autostrada è una serpe che striscia, o è soltanto un miraggio sulla via di casa. Steso su un divano di pelle con la radio che urla buone vacanze, poi un pensiero esplode, sono chiuse le fabbriche. Caldo! Non vale la pena ricominciare con questo caldo. Ah, non vale la pena ricominciare. Non vale la pena ricominciare.